fermati un po' qui. Ho un ritornello da farti sentire e qualcosa di cui parlare, sai. A volte vado giù e non so trovare l'energia per ripartire. Poi sento qualcosa che si muove dentro me. Mi alzo, vado al pianoforte, suono, penso a te. E penso che voglio vivere, voglio ridere e cercare di trovare un modo per ricominciare. Voglio vivere, magari fare un altro errore e provare a rimediare, anche se è troppo grave. Sai, a volte penso di sbagliare sempre tutto e mi sento insoddisfatto e non so più qual è il senso del mio andare, questo fermarsi e ripartire. Poi sento qualcosa che si accende dentro me. Mi alzo, prendo la chitarra, canto, penso a te e canto che voglio vivere, voglio ridere e provare un altro senso, cambiare idea su ciò che penso. Voglio vivere.